figlie del padre. Mister Data sulle macchine, Antiel Onesto sulla voce. Si andiamo high. Con quella tunica sembrava più sincero. Parlo di un padre che l'ha messo in culo ad un paese intero. E il perché non si capisce. Le stelle sognano l'America e si ammazzano di strisce. Dov'è il rinascimento? Dov'è l'arte moderna? Nessuno alla biennale, vanno tutti in caserma. Ed è normale che qualcuno poi si incazza o no? Se ti serve la casa, compra una tenda in piazza e manifesta fino a quando non capiscono. Cassa rullante come Tullio d'Episcopo. Conosco un sacco di filosofi e poeti. Registrano in cantina coi cartoni alle pareti. E lo sapevi che le uova fanno questo. Chiudono il lucchetto e le parole stanno al fresco. Allora vedi, non c'è molta differenza tra chi parla e chi emette una sentenza. Così sono diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. Così sono diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. Parla di cucchi e delle botte che gli han dato. La canzone parla se tu prima gli hai parlato. E se la vita costa poco, la morte costa meno. Il prezzo è basso e non è mai scontato. Voglio schiacciare le veline pure io di notte. Vedo le repliche mentre mio padre